Sta risorgendo dalle tempie del mio tempio, il rap è vivo, ne sento il respiro. Sono metriche, tattiche, dialettiche, sono solo prove tecniche con le lettere. Sta risorgendo dalle tempie del mio tempio, il rap è vivo, ne sento il respiro. Sono metriche, tattiche, dialettiche, sono solo prove tecniche con le lettere. Se prendo il tempo vuol dire che il beat mi ispira. Se vado lento contro tempo vado a stento, perché contemplo sul tempo di dire una rima. Accento il mio accendo e mi ingegno, li accendo tipo lampadina. Ma si continua, perché sto con chi la vita se la gode tutta, fino all'ultima mattina, fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo battito, fino all'ultimo attimo, fino all'ultimo obiettivo. Io sinceramente ne ho due: una è di testare ed ampliare la mia padronanza lessicale, il secondo è di imparare a tenere il tempo anche quando sto dormendo, e sarò contento nel momento di tenere il ritmo mentre penso, e di rappare senza sample, di sostituirlo mantenendo l'andamento dentro da te. Tempo al tempo sono frutto di dosi di rap quotidiane più allenamento. Io non so se rendo, sembra d'essere stato chiaro. Obiettivo primario di sicuro non è il denaro, ma tu dimostrami il contrario. Per questo squaglio rime in mano e fumo in pagine di dizionario. Sta risorgendo dalle tempie del mio tempio, il rap è vivo, ne sento il respiro. Sono metriche, tattiche, dialettiche, sono solo prove tecniche con le lettere. Sta risorgendo dalle tempie del mio tempio, il rap è vivo, ne sento il respiro. Sono metriche, tattiche, dialettiche, sono solo prove tecniche con le lettere. Mi vorrei accampare con i compari, a tirare, a campare, a campari con i tuoi compari, compari e scompari. Siamo pari ma finora pareggi il conto dei pali. A mali estremi, rimedi amari, fatti chiari, pacchi colossali. Allenato a fare fiocchi con le corde vocali, vibrazioni lessicali costanti. Tutti cantanti contenti, contando i contanti, con tanta presunzione si definiscono grandi. Ma sono stanchi, bianchi e barcollanti, con coloriti pessimi, reduci e coloranti. Comandati i vostri comandi, coi telecomandi, mentalmente complesso perché diverso il mio estro. Modestamente punto ad essere modesto, credo in me stesso, per questo riesco nel testo più spesso, e per la cronaca mi basta questo. Sta risorgendo dalle tempie del mio tempio, il rap è vivo, ne sento il respiro. Sono metriche, tattiche, dialettiche, sono solo prove tecniche con le lettere. Sta risorgendo dalle tempie del mio tempio, il rap è vivo, ne sento il respiro. Sono metriche, tattiche, dialettiche, sono solo prove tecniche con le lettere. Thank you.